Rieccoci qui, questa è sulla linea d'ombra e io vi sto parlando da www.webradioluzzi.gimdo.com. Per chi si fosse messo in contatto solo adesso con noi, questa sera tratteremo l'argomento fortuna. Argomento fortuna, abbiamo già iniziato a leggere un piccolo articolo che io ho rinvenuto sulla rete. Nel frattempo, mentre preparavo questa puntata, mi sono un po' permessa di chiedere a persone che io conosco e che sono a me vicine, cos'è per loro la fortuna? E ho avuto delle risposte molto belle, devo dire, delle risposte che mi sono piaciute tanto perché denotano una certa bontà di cuore. Alcune persone mi hanno risposto: per me avere fortuna è avere una bellissima famiglia, cosa che io ho. Altre mi hanno risposto: per me la fortuna è aver incontrato il ragazzo che adesso sposerò. Un'altra persona mi ha risposto: per me, la fortuna è avere degli amici, che riempiono le mie giornate. Un'altra persona mi ha risposto: si tratta di un signore molto anziano, mi ha detto: per me la fortuna è essere arrivato alla mia età ed avere una salute di ferro. Quindi per queste, ognuno di noi ha un metro valutatore, diciamo, nella propria vita e molto spesso, questa è una riflessione che ho fatto io stessa, molto spesso non ci rendiamo conto delle fortune che abbiamo e andiamo a rincorrere sempre delle cose molto materiali, sfociando così nella leggerezza e nella superficialità. Molto spesso avere fortuna significa avere dei buoni amici, una bella famiglia, delle persone che riempiono la nostra vita, fare qualcosa che ci piaccia, scusate. Questo rientra sempre nella sfera della fortuna, solo che al giorno d'oggi la società è diventata così leggera e superficiale che magari rincorriamo troppo l'ideale di fortuna in termini economici, come dicevo prima, tipo fortuna avere una bella macchina, per alcuni questo è fortuna, non lo so. E comunque, adesso non è il caso di fare della morale inutile che sentiamo tutti i giorni attraverso gli altri mass media, e io continuo a leggervi questo articolo. Per i greci, la fortuna era una pura astrazione, tuttavia Tiche, che abbiamo detto essere il nome che incarna la figura della fortuna, incarnò due simboli, per metà provvidenza e per metà caso, uniti in una sola divinità a cui il mondo era sottomesso. Ogni città aveva una statua di Tiche, che in alcuni luoghi era rappresentata cieca, da qui l'immagine della fortuna che non vedendo andava a caso. Io mi scuso per il mio greco, io non ho mai studiato greco, quindi non so se leggo bene il nome della dea. Se qualcuno ravvisa in me un errore, me lo faccio sapere, io non mancherò di correggermi. I romani, invece, introdussero il suo culto con Servio Tullio, che si ritenne un imperatore baciato letteralmente dalla fortuna. Nella mitologia capitolina, la dea Fortuna aveva incorporato Fors, che era il principio maschile, scusate, del caso. Insieme avevano formato una coppia, Fors-Fortuna, che rappresentava ed esprimeva i due aspetti della divinità. A lei, ovviamente, ci si rivolgeva ogni volta che si desiderava ottenere qualcosa. Se ne chiedevano i favori in battaglia, nella quotidianità, di fronte all'avversità della vita, e lei spesso si concedeva a chi sapeva comprenderla, senza adularla e senza neppure criticarla. Lei doveva essere amata ed accolta, altrimenti non si presentava. Per questo era considerata cieca e di parte, perché aveva alcune persone che amava particolarmente. Servio Tullio riteneva di essere amato da Fortuna che, manco a dirlo, gli faceva visita nella notte. Tutto questo, noi uomini moderni e tecnologici, sembra difficile da credere, eppure molte persone sono convinte che esista la fortuna e che a lei si debbano vittorie ed opportunità, altrimenti impossibili da cogliere. Questo era un articolo tratto da internet, da un sito internet ed è scritto da una certa Lidia Fassio. Io dico sempre i nomi qualora li ritrovo negli articoli perché è giusto rendere merito a chi ha scritto, a chi ha pubblicato qualcosa sulla rete. L'articolo continua dicendo: che cos'è per noi la fortuna? Sicuramente non è qualcosa di esterno a noi. Se è vero che esiste, la possiamo trovare nei nostri atteggiamenti, in quel senso di fiducia nella vita che nasce da dentro e che produce un'apertura agli eventi e alle possibilità. Infatti, non si tratta di avere fortuna, bensì di sentirsi fortunati, il che ovviamente ci riporta ad un modo di essere e di sentire piuttosto che a qualcosa che può accadere e giungere nella nostra vita. Io trovo che questo pezzo sia veramente, veramente molto bello perché chiede appunto di trovare la fortuna dentro di noi.